Ad alta voce, Maria Paiato legge Amatissima di Toni Morrison. Traduzione di Giuseppe Natale. Il giorno in cui Denver avrebbe dovuto passare la sua prima notte dai Bodwin, Mr. Bodwin aveva qualche faccenda da sbrigare in periferia e aveva detto a Jenny che sarebbe passato a prendere la nuova ragazza prima di cena. Denver sedeva sui gradini della veranda con un fagottino in grembo. Il suo abito carnevalesco sbiadito dal sole ora era un arcobaleno di colori dalle tinte più dimesse. Guardava a destra, nella direzione da cui sarebbe dovuto sbucare Mr. Bodwin. Non si accorse delle donne che, assembrandosi lentamente a gruppi di due o di tre, si stavano avvicinando da sinistra. Denver guardava a destra. Era un po' preoccupata, non sapeva se sarebbe riuscita soddisfacente o meno ai Bodwin. Inoltre provava una sensazione di disagio, poiché si era svegliata urlando dopo aver sognato un paio di scarpe che correvano via. Non era riuscita a scuotersi di dosso la tristezza di quel sogno e mentre svolgeva le faccende domestiche si sentiva oppressa dal caldo. Aveva avvolto in un fagotto una camicia da notte e una spazzola assai prima del dovuto. Torturava nervosamente il nodo e guardava a destra. Alcune donne avevano portato quel che potevano e quel che pensavano avrebbe funzionato. L'avevano stipato nelle tasche dei grembiuli, avvolto attorno al collo, infilato tra i seni. Altre avevano portato la loro fede in Cristo, come spada e scudo. La maggior parte aveva portato entrambe le cose. Non avevano la minima idea di ciò che avrebbero fatto una volta giunte lì. Erano partite. Avevano camminato fino a Bluestone Road e si erano riunite all'ora prestabilita. Il caldo aveva fatto stare a casa alcune di loro che in un primo tempo avevano detto di voler andare. Altre, tra quelle che avevano creduto nella fondatezza di quella storia, non volevano aver niente a che fare in quel confronto e non sarebbero venute indipendentemente dal tempo. E poi c'erano quelle come Lady Jones, le quali non credevano alla storia e odiavano l'ignoranza delle altre. Così, a formare quel gruppo, erano 30 donne che avanzavano ad agio verso il 124. Erano le 3 del pomeriggio, di un venerdì così umido e caldo che il fetore di Cincinnati era arrivato fino in campagna, dal canale, dalla carne appesa e dalle cose che marcivano nei barattoli, dai piccoli animali morti nei campi, dalle fogne delle città e dalle fabbriche. Il fetore, il caldo, l'umidità. Certo, il diavolo voleva far sapere che c'era. Per il resto, sembrava una normale giornata di lavoro. Avrebbero potuto andare a fare il bucato all'orfanotrofio, al manicomio, a sgusciare il grano al mulino, a pulire il pesce, a sciacquare l'interiore degli animali macellati, a cullare i bambini bianchi, a scopare i negozi, a raschiare la cotenna di porco, a pressare il lardo, a impacchettare la salsiccia o a rinchiudersi nelle cucine delle taverne. Così i bianchi non avrebbero dovuto vederle mentre maneggiavano il loro cibo. Ma non quel giorno. Quando si erano ritrovate insieme, tutte e 30, ed erano arrivate al 124, la prima cosa che avevano visto non era stata Denver seduta sui gradini, ma se stesse. Più giovani, più forti, perfino come delle bambine distese sull'erba, addormentate. Il pesce gatto friggeva nel tegame facendo spruzzare il grasso e si rividero a prendere col mestolo l'insalata di patate alla tedesca e a metterla sul piatto. La bevanda ghiacciata, da cui colava dello sciroppo violetto, macchiava i loro denti. Sedevano sulla veranda, correvano lungo il fiume, provocavano gli uomini, sollevavano i bambini sui fianchi o, se le bambine erano loro, scalciavano le caviglie dei vecchi che stringevano le loro manine mentre le facevano andare a cavallo sulle ginocchia. Baby Sachs rideva e passava veloce tra di loro, esortandole a prendere dell'altro. Le madri, ora morte, muovevano le spalle al ritmo delle armoniche a bocca. Lo steccato a cui si erano appoggiate o che avevano scavalcato era scomparso. Il ceppo di noce bianco si era aperto come un ventaglio. però erano lì, giovani e felici, a giocare nel cortile di Baby Sax, senza sentire l'invidia che sarebbe venuta a galla il giorno dopo. Denver aveva udito un mormorio e s'era voltata verso sinistra. Quando le vide si alzò. Si radunarono, mormorando e sussurrando, però non misero piede nel cortile. Denver le salutò con la mano, alcune risposero al saluto, però non si avvicinarono. Denver tornò a sedersi, domandandosi che cosa stesse succedendo. Una donna si lasciò cadere in ginocchio. Metà di loro fece altrettanto. Denver vide i loro capi reclinati, però non riusciva a sentire la preghiera principale, solo le zelanti sillabe che l'accompagnavano. «Sì, sì, sì, oh sì, ascoltami, ascoltami, oh Signore, ascoltami, sì, ascoltami!» Fra coloro che non erano in ginocchio, che stavano in piedi a fissare decise il 124, c'era Ella. Cercava di penetrare le pareti con lo sguardo, dietro la porta, per vedere che cosa ci fosse realmente là dentro. Era vero che la figlia morta era tornata? Oppure era un'impostora? Picchiava Seth? Ella era stata abbattuta in ogni modo possibile, ma non abbattuta. Si ricordava dei denti di sotto che aveva perduto a causa del morso e le cicatrici della campana attorno alla vita erano spesse come funi. Aveva partorito, ma non allattato, una cosa bianca e pelosa, procreata dal peggio del peggio. Era vissuto 5 giorni senza emettere un suono. L'idea di quel cucciolo che tornava a picchiare anche lei mise in azione la sua mascella ed ella gridò. Quelle che erano inginocchiate e quelle che stavano in piedi si unirono immediatamente a lei, smisero di pregare e fecero un passo indietro verso l'inizio. All'inizio non c'erano parole. All'inizio c'era il suono e tutte sapevano che suono avesse quel suono. Edward Bodwin arrivò in Bluestone Road alla guida di un calesse. Gli dispiaceva un po' poiché preferiva farsi vedere a cavallo di Princess. Stando così, curvo, le mani che stringevano le redini, mostrava tutti i suoi anni. Però aveva promesso a sua sorella di fare una deviazione per passare a prendere la nuova ragazza. Non aveva bisogno di pensare a che strada fare. Stava andando verso la casa dove era nato. Forse era proprio la sua meta che lo aveva fatto pensare al tempo, al modo in cui gocciolava lento o scorreva veloce. Non vedeva la casa da 30 anni. Né il noce bianco sul davanti, né il fiume sul retro, né la baracca di legno in mezzo, neppure il prato al di là della strada. Si ricordava pochissimi dettagli dell'interno della casa, poiché quando la sua famiglia si era trasferita in città aveva 3 anni. Però si ricordava che si faceva da mangiare dietro la casa, che era proibito giocare vicino al pozzo e che lì morivano le donne. Sua madre, sua nonna, una zia e una sorella più vecchia, prima che nascesse lui. Gli uomini, suo padre e suo nonno, si erano trasferiti con lui e con la sua sorellina in Court Street, 67 anni prima. La terra, 80 acri complessivi, da una parte all'altra di Bluestone Road, era ovviamente la cosa di maggior valore, però sentiva un attaccamento più dolce e più profondo nei confronti di quella casa. Ed era quello il motivo per cui l'affittava anche per poco, se poteva. E non lo preoccupava il fatto di non ricevere alcun affitto, se perlomeno chi ci abitava le impediva di rovinarsi del tutto, come sarebbe successo se fosse stata abbandonata. C'era stato un tempo in cui aveva l'abitudine di seppellirvi delle cose preziose che voleva proteggere. Da bambino, ogni singolo oggetto che possedeva era a disposizione della sua famiglia e sempre riconducibile a essa. La segretezza era un privilegio degli adulti, però quando lo era diventato anche lui, non gli era sembrato d'averne bisogno. Il cavallo avanzava al trotto ed Edward Bodwin si rinfrescò i bei baffi soffiandoci sopra. Era opinione comune tra le donne della società che i baffi, mani a parte, erano la sua caratteristica più attraente. Scuri, vellutati, la loro bellezza era rinforzata dal forte mento sbarbato. Ma aveva i capelli bianchi, come sua sorella, e li aveva da quando era un giovanotto. Lo rendevano a qualsiasi riunione la persona che si notava e si ricordava più facilmente. E i vignettisti si erano attaccati alla teatralità dei suoi capelli bianchi e dei suoi baffi neri ogni volta che dipingevano gli antagonismi politici locali. 20 anni prima, quando la società era al suo apice nella lotta contro la schiavitù, era come se i suoi diversi colori racchiudessero in sé il cuore della questione. Il negro sbiancato, così lo chiamavano i suoi oppositori. E durante un viaggio in Arkansas, alcuni fluviali del Mississippi, infuriati di dover competere con i barcaioli neri, lo avevano preso e gli avevano cosparso la faccia e i capelli di lucido da scarpe nero. Quei giorni esaltanti ora erano scomparsi ed erano rimasti soltanto i residui della cattiva volontà. Speranze infrante e difficoltà irrisolvibili. Una repubblica tranquilla. Beh, non ai suoi tempi. Neanche più il clima riusciva a sopportare. O faceva troppo caldo o si gelava, e quel giorno era un'afflizione. Si calcò il cappello per riparare il collo dal sole, dove prendersi un colpo di caldo era un pericolo reale. Quei pensieri di morte non gli erano nuovi. Ora aveva superato i 70 anni. Però avevano sempre la capacità di seccarlo. Mentre si avvicinava alla vecchia casa, il posto che continuava ad apparirgli nei sogni, era ancor più consapevole di come procedesse il tempo. Misurato secondo le guerre che aveva vissuto, ma non combattuto, contro gli indiani, gli spagnoli, i secessionisti, era stato lento. Ma misurato secondo le cose personali che aveva seppellito, era stato un batter d'occhi. Dov'era esattamente la scatola con i soldatini di latta e la catena dell'orologio senza orologio? E a chi li nascondeva? A suo padre, con tutta probabilità. Un uomo profondamente religioso che sapeva ciò che sapeva Dio e diceva a tutti di che cosa si trattava. Edward Bodwin lo riteneva un uomo strano, sotto molti aspetti, però aveva un'idea chiara. La vita umana è sacra, senza distinzioni. E a questo suo figlio credeva ancora, anche se aveva sempre meno ragioni per farlo. Dopo di allora, niente era più stato vivo come ai vecchi tempi delle lettere, delle petizioni, degli incontri, dei dibattiti, del reclutamento, delle liti, della liberazione e della semplice sedizione. Eppure aveva funzionato, più o meno. E quando non aveva funzionato, lui e sua sorella si erano resi disponibili per aggirare le difficoltà. Come quando avevano permesso a una schiava fuggitiva di vivere nella loro casa con la suocera. E lei si era poi cacciata in un mare di guai. La società era riuscita a fronteggiare l'accusa di infanticidio e il grido di barbarie nei suoi confronti ed era riuscita a montare un caso a favore dell'abolizione della schiavitù. Erano stati anni positivi, pieni di energia e di convinzione. Ora voleva solo sapere dove fossero i suoi soldatini e la sua catena senza orologio. Sarebbe già stato abbastanza per quel giorno di caldo impossibile. Portarsi via la nuova ragazza e ricordarsi esattamente dove era sepolto il suo tesoro. Poi a casa la cena e, se Dio voleva, il sole sarebbe nuovamente calato per dargli la benedizione di una buona notte di sonno. La strada piegava a gomito e mentre si avvicinava alla casa udì il canto prima di riuscire a vedere le donne. Quando le donne si erano radunate fuori del 124, Seth era impegnata a spaccare un cubo di ghiaccio a pezzettini. Lasciò scivolare il punteruolo del ghiaccio nella tasca del grembiule per versarne con un mestolo i pezzi in un catino d'acqua. Quando sentì il canto provenire dalla finestra, stava strizzando un panno fresco da mettere sulla fronte di Beloved. Beloved, sudando a profusione, era sdraiata sul letto del soggiorno, un pezzo di sale in mano. Entrambe le donne udirono la musica nello stesso istante ed entrambe alzarono la testa. Mentre le voci si facevano più forti, Beloved si tirò su a sedere, leccò il sale e andò nella stanza più grande. Lei e Seth si scambiarono un'occhiata e si diressero verso la finestra. Videro Denver seduta sugli scalini e più in là, dove il cortile confinava con la strada, videro le facce rapite di 30 donne del vicinato. Alcune avevano gli occhi chiusi, altre guardavano verso il cielo limpido, caldo. Seth aprì la porta e prese Beloved per mano. Restarono così, sulla soglia. Per Seth era come se la radura fosse andata da lei, con il suo caldo e le sue foglie cocenti, dove le voci delle donne cercavano la giusta combinazione, la chiave, il codice, il suono che spaccava la schiena alle parole. Costruivano, voce dopo voce, fino a che non l'avevano trovato, e quando l'avevano trovato era un'ondata di suoni grande abbastanza da sondare le acque profonde e far cadere i frutti dagli ipocastani. Si riversò su Seth e lei tremò come un battezzato trema sotto l'acqua. Le donne che cantavano riconobbero subito Seth e restarono sorprese di se stesse, dal fatto di non provare la minima paura alla vista di ciò che le stava vicino. La bambina diavolo era astuta, pensarono, e bella. Aveva preso la forma di una donna incinta, nuda e sorridente, nel caldo sole del pomeriggio. La pelle nero pece e luccicante, se ne stava in piedi sulle gambe lunghe, la pancia grande e tesa. La testa era un intrico di capelli. Oh Gesù, il suo sorriso era sconvolgente. Seth sente un bruciore agli occhi e forse è per averli limpidi che alza lo sguardo. Il cielo è azzurro e limpido, neppure un accenno di morte nel verde intenso delle foglie. È quando abbassa gli occhi per guardare di nuovo quelle facce in adorazione davanti a lei che lo scorge. Dietro la cavalla, rallenta, il cappello nero dalle falde abbastanza ampie da nasconderne il volto, ma non le intenzioni. Sta arrivando nel suo cortile e sta arrivando per prendere la sua parte migliore. Lei sente le ali. Dei piccoli colibrì infilano i becchi nel fazzoletto che le copre la testa, arrivano ai capelli e sbattono le ali. E se lei pensa a qualcosa, è un no. No, no, no, no, no, vola. Il punteruolo del ghiaccio non è nella sua mano, è la sua mano. Rimasta sola sulla veranda, Beloved sorride, ma ora la sua mano è vuota. Seth sta correndo via da lei, sta correndo via, e lei sente il vuoto nella mano che prima lei stringeva. Sta correndo per raggiungere le facce di quella gente laggiù, si sta unendo a loro e sta lasciandosi dietro Beloved, sola, di nuovo. Poi vede Denver, anche lei sta correndo, via da lei, verso quel mucchio di gente laggiù. Formano una collina di neri, cadono e sopra tutti loro, sollevandosi dal suo posto con la frusta in mano, c'è l'uomo senza pelle che guarda, guarda lei. Piedi scalzi e linfa di camomilla, via le scarpe, via il cappello. Piedi scalzi e linfa di camomilla, ridammi le scarpe, ridammi il cappello. Su un sacco di patate la testa ho appoggiato, dietro la schiena il diavolo m'è strisciato. La locomotiva fa un lamento insistente, ama quella donna finché non vedi più niente. Non vedi, non vedi, non vedi più niente. la ragazza di Sweet Home non ti togli dalla mente. Paul D. compie il cammino inverso di quando se n'era andato. La ghiacciaia, il ripostiglio, poi la cucina, prima di affrontare i letti. Here Boy, debole, col suo manto a chiazze che sta mutando, è addormentato vicino alla pompa. Allora Paul D. capisce che Beloved se n'è andata per davvero. Scomparsa, dice qualcuno, esplosa proprio davanti ai loro occhi. Ella non ne è certa. Forse, dice. Forse no. Magari è lì che si nasconde tra gli alberi ad aspettare un'altra occasione. Però quando Paul D. vede il vecchio cane, 18 anni suonati, è sicuro che al 124 lei non c'è. Apre la porta della ghiacciaia, solo a metà, aspettandosi di sentirla dire «Toccami, toccami dentro e chiamami col mio nome». C'è il pagliericcio, cosparso di vecchi giornali, rosicchiati agli angoli dai topi, la latta del lardo, i sacchi di patate vuoti però, giacciono anch'essi ammucchiati per terra. Alla luce del giorno non riesce più a immaginare quel posto al buio, con i raggi di luna che si infiltrano tra le fessure. Né riesce a immaginare il desiderio che lo travolgeva e lo costringeva a lottare per risalire, per riemergere dentro quella ragazza quasi come lei fosse l'aria pura sopra il mare. Accoppiarsi a lei non era neppure bello. Era più come un impulso cieco a restare vivi. Ogni volta che lei veniva e s'alzava la veste, era sopraffatto da una brama vitale e non riusciva a controllarla più di quanto potesse controllare i propri polmoni. E dopo, in salvo, arriva a deglutire l'aria tra la repulsione e la vergogna di se stesso. Era anche grato per essere stato condotto in un posto in fondo al mare che un tempo era suo. I residui della luce del giorno sciolgono la memoria, la trasformano in pulviscolo che ondeggia nell'aria. Paul D. chiude la porta, guarda in direzione della casa e sorprendentemente questa non ricambia lo sguardo. Così, scarico. Il 124 è solo un'altra casa vetusta che ha bisogno di riparazioni. Silenziosa, proprio come aveva detto Stampede. Tutto attorno a quel posto c'erano sempre delle voci. Adesso è silenzioso, aveva detto Stamp. Ci sono passato vicino un paio di volte e non ho sentito un accidente. È purificata, credo, visto che Mr. Bodwin dice che la vende non appena può. È il nome del tipo che ha cercato di pugnalare, proprio lui? Già, sua sorella dice che porta solo guai. Ha detto a Jenny che se ne voleva liberare. E lui? Chiese Paul D. Jenny dice che non è d'accordo, però non lo impedirà. Secondo loro chi vuole una casa laggiù? Chi ha dei soldi non vuole certo vivere laggiù. Mi stupirebbe, rispose Stamp. Ci vorrà un po', credo, prima che riescano a togliersela dalle mani. Non pensa di denunciarla? Sembra di no. Secondo Jenny, tutto quello che vuole sapere è chi era quella donna nuda che stava sulla veranda. Lui la stava guardando e non si è accorto di quanto stava combinando Seth. Ha visto solo delle donne di colore che lottavano. Pensava che Seth ce l'avesse con una di loro, ha detto a Jenny. Jenny gli ha raccontato un'altra storia? No. Dice che è contenta che il padrone non sia morto. Se non l'avesse fermata ella, l'avrebbe fatto lei. L'ha spaventata a morte l'idea che quella donna potesse uccidere il padrone. Allora, a cercare un lavoro, oltre a Denver, ci sarebbe stata anche lei. Jenny gli ha detto chi era la donna nuda. Gli ha detto che non ha visto nessuno. Secondo te l'hanno vista? Beh, qualcosa hanno visto. A ogni modo io mi fido di ella e lei dice che l'ha guardata dritta negli occhi. Era in piedi, proprio vicino a Seth. Ma dal modo come l'hanno descritta non era la ragazza che ho visto io lì dentro. La ragazza che ho visto io era magra, questa qui era grossa. Dice che si tenevano per mano e Seth vicino a lei sembrava una ragazzina. Una ragazzina con il punteruolo per il ghiaccio. Quanto gli è andata vicino? Oh, quasi addosso, dicono. Poi Denver e le altre l'hanno afferrata ed ella le ha mollato un pugno. Doveva saperlo che Seth ce l'aveva con lui. Doveva saperlo. Forse, non so. Anche se l'ha pensato, secondo me ha deciso di lasciar stare. È tipico di lui. È uno che non ci ha mai traditi, saldo come una roccia. Ti dico una cosa. Se Seth l'avesse colpito, era la cosa peggiore al mondo che potesse capitarci. Tu lo sai, vero? Che è soprattutto lui che ha evitato la forca a Seth. Sì. Maledizione, quella donna è pazza, pazza. Sì. Ma non lo siamo un po' tutti? A quel punto scoppiarono a ridere. Dapprima fu un risolino soffocato, poi sempre più forte, finché Stamp prese il fazzoletto dal taschino e si asciugò gli occhi, mentre Poldi si premeva il polso. Intanto che la scena, a cui nessuno dei due aveva assistito, prendeva forma davanti ai loro occhi, la gravità e lo sconcerto della cosa li facevano morire dalle risate. «Ogni volta che un bianco va da lei, lei deve ucciderlo!» Per quanto ne sapeva, l'uomo poteva anche essere lì per l'affitto. Meno male che non consegnano la posta da quelle parti, altrimenti nessuno riceverebbe nessuna lettera, tranne il postino. Sarebbe un bel messaggio per lui, e anche l'ultimo. Quando anche l'ultima risata si esaurì, sospirarono profondamente e scossero il capo. «E permette lo stesso a Denver di passare la notte in casa sua?» «Ah, oh no! Ehi, lascia stare Denver, Poldi. Lei è la mia Beniamina. Sono orgoglioso di quella ragazza. È stata la prima a bloccare la mano di sua madre. Prima ancora che qualcuno capisse che cosa diavolo stava succedendo. Si può dire allora che gli ha salvato la vita? Si può dire, si può dire», rispose Stamp, pensando improvvisamente al balzo, alle ampie oscillazioni e alla morsa del suo braccio mentre salvava la bimba ricciolina che per un pelo non aveva avuto il cranio fracassato. «Sono orgoglioso di lei. Cresce bene, proprio bene». Era vero. Poldi la vide la mattina dopo, quando stava andando al lavoro, e lei aveva terminato il suo. Più esile, lo sguardo tranquillo, somigliava più che mai a Hall. Lei fu la prima a sorridere. «Buongiorno, Mr. D». «Beh, ora lo è». Il suo sorriso, non più l'espressione sprezzante che ricordava, aveva in sé un che di cordiale e una forte somiglianza con la bocca di Seth. Poldi si portò la mano al berretto. «Come te la passi?» «Non mi posso lamentare». «Stai andando a casa?» Rispose di no. Aveva sentito di un lavoro pomeridiano alla fabbrica di camicie. Sperava che con il suo lavoro notturno dai Bodwin più un altro potesse mettere da parte qualcosa e aiutare sua madre. Quando le chiese se lì la trattavano bene, lei rispose che la trattavano più che bene. Miss Bodwin le insegnava delle cose. Le domandò di quali cose si trattava. Lei rise e disse che erano cose di scuola. Dice che potrei andare a Oberlin, fa delle prove su di me. E lui non le disse: sta attenta, non c'è niente di più pericoloso al mondo di un insegnante bianco. Invece annuì e le fece la domanda che le voleva fare. «Tua madre sta bene?» «It ain't nobody's business. It ain't nobody's business. It ain't nobody's business but mine.» Maria Paiato ha letto Amatissima di Toni Morrison, traduzione di Giuseppe Natale. A cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini. Regia di Luigi Iavarone. Per riascoltare e scaricare il programma, radio3.rai.it.